città, la nostra per la vita è ancora là, davanti a noi, quanti giorni e poi notti che aspettano noi. Poi andare sempre via, una stretta di mano e sei già via, e sempre così dopo l'amore, ma chissà stavolta io mi gioco il cuore. Fianco per la vita, c'è un po' di tutto, parole, frasi d'amore e tanta voglia ancora di ricominciare.